armature sti la stessa, lo stesso profumo, la stessa valigetta, i tuoi capelli, la camicetta stretta stretta è la ricetta per amare, la tua formula perfetta. Io voglio tutta, voglio tenerti stretta stretta, voglio tutta la torta e non soltanto una fetta. Qui c'è una persona che da tanto che ti aspetta, e di aspettarti qui non avrà mai fretta. Il mio amore per te non sarà mai abbastanza, ti penso intensamente chiuso in questa stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Il nostro amore per me è come un'alleanza, ti penso intensamente chiuso in questa stanza. La fiducia in te mi dà forza e resistenza, quando ci sei tu c'è sempre una speranza. La tua voce continua a ronzarmi in testa, ormai sono cotto dai piedi alla testa. Se sbagli ti perdono, per me non ha importanza, con te non esiste la parola arroganza. Se sbagli ti perdono, per me non ha importanza, ti sto pensando ancora rinchiuso in questa stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Ancora ti sto pensando con tutto me stesso. Se sbagli non ha importanza, io ti amerò lo stesso. Quest'amore è come un fuoco che mi arde dentro. Posso pure cambiare umore, ma non cambio il sentimento. Il nostro primo incontro lo tengo ancora dentro. Il tuo primo bacio è stato come un rapimento. Adesso amore, non cadere più in errore. Non ci sarà mai niente che ci farà lasciare. Quando c'è un ostacolo, lo superiamo insieme. Amore, amore, con te sto così bene. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Ciao, ciao, punti a capo. Comincerò da zero. Il sogno di ieri notte mi sembrava così vero. Le tue parole sono per me come il bianco sul nero. Quando sono in tua compagnia io mi sento un uomo vero. Sarò sempre sincero, ti dirò tutta la verità. Mi spremo le meningi, ci metto tutta la volontà per soddisfarti amore, ancora e ancora. Ma adesso basta amica mia, è arrivata l'ora. L'ora di starti più vicino e l'ora di starti accanto. E d'altro canto i tuoi problemi non sono quello che canto. Voglio vederti felice, non so se capisci cosa intendo. Quando sono vicino a te io mi dimentico del mondo. Questo mondo è solo una palla, questo mondo è solo una farsa. Meglio non essere nulla che essere una comparsa. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio amore chiuso in una stanza. Chiuso in una stanza, il mio cuore chiuso in una stanza. E yo, GPL Crew, chiuso in una stanza.